gente, ad armi ad armi, il pastore, gente, gente, aiuto, aiuto, con perduto, cosa vende, cosa vende, il scellerato, ma tradito, mai fanato, che così sta da vedere. Maggio, mia figlia, mia madre, madama, offerte a trama, la perdi dai qua, la perdi dai qua. Perdono, oh, no, non sperarlo, perdono, perdono, no, no, no, no. Thank you.